sarà per tutti e buona propagazione, Salvatore. Sì, ora guardate, non ci fare caso, io come si dice, ci ho fatto i calli, lo so, perché la maggior parte stanno in Bibbia, perché ti parlo con la Sicilia, perché parlo con quello e quello non ci arriva e ci mandavo tanto addosso. Lo so. Ok dai, io non voglio disturbare questo locale, un forte abbraccio per tutti gli amici dell'Isola Cassa, città di Maletto, provincia di Catania, Salvatore saluta. Un forte abbraccio per tutti, buona fine della domenica e buon inizio settimana. Salvatore ha salutato. Cappa Salvatore, dai, fermati, è un piacere, non è un disturbo. Se vuoi restare siamo qua. Purtroppo c'è chi disturba e spero che si abbia fatto un esame di coscienza. Salvatore, ti ascolto anche con l'animale lì da combattimento, con quello modificato, sì, ti ascolto bene, un abbraccio ancora. Vediamo un po' chi ci è rimasto, avanti, Lubrofetta, ci sei? Eia, è soltanto che c'era troppo traffico, l'incrocio era un po' intasato, dai. Comunque salutoni 73 anche a Salvatore che arriva molto forte anche qua in queste coordinate, quindi con tutto questo brutto non è che faccia piacere ascoltare, dai. Un mezzo casotto, dai, quindi non so se il resto. Comunque niente, dai, avanti a chi tocca. Capa, tocca a me, dai. Buonasera, amico della Sicilia, Cupi Antonio dalla città di Sassari. Attenzione Antonio, se senti Radio Alfa ti chiama. Adesso mi hai rotto il coglione, va, sto uscendo. Perché mi arriva un segnale di 9 più. E cosa ti vuoi fare, Salvatore? Purtroppo. Vabbè, dai. Signore, buona serata, dai. Buon divertimento e buon inizio settimana. Del prossimo settimana, città di Maletto, provincia di Catania, saluta. Da quelle parti, sì, grande isola. Ciao Salvatore, sei solo a Livano, 73.51 a tempo, perché lui passa lo stesso, è lui che ti mette a mandare la portante, perché l'amico Franco passa lo stesso, non ci puoi fare niente, ci puoi fare solo un baffo. Campa, mi sa che passi anche tu tra poco, io non so lì in Sicilia come arrivo, ma tu arrivi fortissimo, arrivi. Scappa, mi fai 9.30, pieno, mi fai 9.30, e la portante mi fa 7.8, tu mi fai 9.30 pieno. Ah, e schiacciati il muccio, brutto scemo di guerra. Lui dove vuole andare con quella musica? Può disturbare al massimo solo noi. Ma poi anche tu quando arrivi forte lo passi, eh? Sì, ma io vado con 9 watt in antenna, ho caricato qua 900 watt. E l'apparato anche se è sotto l'ego, perché se ci metto l'ego mi dà qualche watt in più. Cappa, mia, guarda. Ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Da qua qui Sicilia arrivi. Ma uscia, come dicono da certe parti. Devi salutarti se mi ascoltate, dai, che io vado qui a ritirare. Non mi piace fare questo così. Mi dispiace perché c'era una bella propagazione, stasera mi stava un po'. Mi stava piacendo la storia, ma così non si può continuare. Vabbè, ciao Franco, ti ho messo un pochettino di eco per trovarlo per domani mattina. Signori, buona serata, buonanotte a tutti. Salvatore saluta, Gappa, salutoni Salvatore, ci arriviamo alla prossima, avanti Franco. Franco ti cordializza. Vediamo un po' Danilo. Sì, ciao Salvatore, alle prossime magari con un altro po' di propagazione del genere, però senza questo che si intromette nei nostri discorsi, che almeno a farsi un quassio anche lui ogni tanto invece di sprecare corrente così. Dai Salvatore, alle prossime, ci sentiamo, alla prossima. Ciao! Tutto pure a te che mandi la bottante, gnegne, la raffala gnegne, basta più. Ciao a tutti gli amici dell'Isola Calda, ciao Chius. Minchia, in questo passaggio eri proprio attaccato il DB, Salvato, date la regolata, Sono a minimo, anzi ti faccio un altro passaggio. Questo è minima e questa è massima potenza, quella era minima e questa è massima. Prima regolata, Salvatore, io posso arrivare così, dai. Ora, adesso sono al massimo, sono, com'è? Ora mi fai, da appena regolata, ciao, ciao, dai, non mi disturbare qua, ciao. Ciao, Salvatore, dai, yuhuu! Comunque viaggia solamente un po' di potenza in radio, il segnale è sempre lo stesso, 9,20, non si muove, però di radio lo muove senza problemi. Se ci fosse stata anche un'altra scala oltre il 5 in radio gli avrei dato anche il 10 di radio, una potenza quella radio che sta usando. Ma qual è la mia o qual è il Salvatore? No, quale Salvatore? Quello della Catania. Aspetta, c'ho una radio allucinante. A voi vi sento molto bassi in confronto a lui. Ma veramente? Stiamo usando quelli modificati, capito? Quelli con la scheda Colt e cose varie. Bello! Vi ho fatto toccare il DB in Sicilia, Cara, limpida. Avete parlato in due, dimmi, Dani. Che come radio... c'è la bella forte come parla, bella limpida anche, bella potente, e a voi vi sento molto bassi in confronto a lui. Sì, ripeto, sono modificati, ha il doppio modulatore, quindi esce più forte, e poi tutto modulazione, tutta radio, e il segnale, visto quanto sale poi da quando parla, è tutto portante. No, quello lì sì, però è una bomba, però stavo usando anche un bel po' di watt, diciamo anche quello, però già se l'ha levata la mosca dal naso a farsi sentire, senza problemi. E a quello che stavo parlando a rompere le scatole, se l'ha messo in tasca senza problemi anche a lui. Lo sovramodulava, lo copriva senza problemi, ma senza problemi veramente me. Lo copriva senza problemi, sì. Comunque questo che si stava mettendo in mezzo a noi ancora non si sa chi è, no? Non ce lo vuole dire, boh. Avanti sull'Italia! Cappa, salutoni e ben sentito qui dalla Sardegna, Cappa, adesso ti mando un altro amico, ti mando avanti, Danilo. Sì, sull'Italia riesco a sentirlo appena appena perché c'era un altro che stava parlando sopra e non sono riuscito a capire molto. Avanti, sull'Italia. Roger, Danilo, l'operatore audio della provincia di Catania. Ho soltanto detto. Chiaramente di nuovo la frequenza, vediamo un po' se mi hai copiato. Vai, Danilo. Sì, adesso senza problemi ti ho copiato. Adesso ti sento forte e chiaro. Bene, mi fa piacere, anche voi arrivate abbastanza bene, 7-8 al mio QTH. Quindi un buon segnale, abbastanza equilibrato, la popolazione ottima, non si può avere che in questo momento si è molto benissimo. Vengo dalla provincia di Catania, a 20 km da KM da Catania. Una cittadina chiamata Santa. Sì, Danilo, se ti metto la linea, vai a tirare tu, vai. Sì, no, io ti prendo con segnale di 9,10, radio 5, chiara chiara, radio, limpida. Vediamo se ti sente l'amico Antonio senza che lui spinga oltre. No, non sto spingendo oltre, sono normale. Cappa, qua è segnale 9,15, radio 5, abbastanza forte, come arrivo lì a Catania? Neanche tu mi stai arrivando circa 8, 8 e mezzo. Arrivi abbastanza bene, non so. Io in questo momento sto andando con circa un centinaio di vatti, poco più, poco meno. Potrei anche spegnere la spalina per vedere il circo che succede. Papa, che ti ho copiato, sì, no, qua c'è oscillante, no, un passaggio 9,15, un passaggio 9, 9,5, roba così, però la cosa è tutta Roger, poco fa stavo dando, molto di più stavo dando, sono arrivato 9,30 pure, dai, avanti. Sì, l'aiutino fa anche tutto, un po' la costante, quindi un po' più facile di veramente impegnare. Con la buona cordialità, con la parte che sente. Sì, sì, Alfio. No, io sto uscendo con i watt massimi di questa radio che sono 40, che in poche parole sto usando un IC7000 con il microfono un MC60 e un'antenna, una Game Master autocostruita. Uscendo limpido con i watt originali della radio, non c'ho niente che mi possa aiutare a spingere oltre, però mi hai detto che già mi senti bene, mi ricevi anche molto bene. Roger, ti sento bene, 8 e mezzo, ci sono punte anche di noi, quindi il segnale di entrambi è abbastanza bene, la modulazione è molto limpida, anche perché io non ho coerenza in questo momento, ci sono giornate che ce ne stanno oggi, quindi molto pulito il segnale, non c'è fruscio nulla, perfettamente a posto, meglio di così non si può andare, se ne metto la tenda, vai a girare. Sì, sì, beh, perfetto, meglio, con poco QRM che è perfetto, almeno non c'hai il fruscio sotto. Sì, avanti, sentiamo se Gianni o Natalino lo sentono, avanti. No, c'è l'altro amico, c'è, avanti. Vediamo un po' se mi ascolta, Alfio, mi ascolti, con la buonasera. Oh, Roger, ti conto benissimo, Sì, sì, qui è Franco, qua da Sassari, provincia di Sassari, anzi proprio Sassari città, che ti cordializza. Avanti ancora per te, Alfio. Roger, Sassari, meno rispetto a sono problemi nel suo di nuovo Franco, Sì, anch'io sto usando un'antenna autocostruita, tipo Game Master, soltanto che non è sul tetto ma è sulla finestra, diciamo, dai. Non sporge dal tetto. Avanti ancora per te. Quindi ci ascoltiamo abbastanza bene, abbastanza più. Vai, Danilo. Ci sono anch'io, Sì, sì, c'è Alfio, c'è anche Luca, un amico sempre di Sassari. Dimmi se lo senti a lui, ma penso di sì, perché c'è una buona radio. Negativo, non sono Luca, sono Gianni qua, sono stato un po' messo da parte, vabbè, ok. Un saluto Alfio qua, sempre dalla città di Sassari, per le coordinate di Catania. Dai, avanti, non so se mi copri. Roger. Prima l'ho sentito Luca, poi fece Fede Sassi, tutti quelli che si ruota. E ti ascolto bene, metto la scheda, vai, dai, non capito. Mi sono dimenticato il nome. Ok, dai, riprendo il mic, colgo l'occasione per fare QRT, saluto noi a tutti quanti, 7-3, buona serata e buon QSO da parte mia. Ok, dai, alle prossime, agli amici sardi e anche a quelli dell'isola di Trinacria. Ciao ciao, bye bye. Sì, scusa Gianni, ma mi sono confuso poco fa col segnale. Ciao Gianni, una buona sera. Sì, avanti Antonio da Palermo. Qua è Danilo da Sassari, nord Sardegna. Capo, avanti l'amico Antonio da Palermo, avanti. Eccolo. Avanti break. Ecco, imbecille. 29 che sembra Monte Zingolda. Ma ti compongo di ugheni, dimmi. Marco, di chi si brucia il tastino? Che cazzo, che bellissimo. A me ci togli un po' di QR, me la... Cappa, poi lo fa prova di nuovo che passiamo tutte. Tu mi devi fare, ma che cappello, dai. Che bello portate, è un piacere. Dai, arriva anche da quelle parti, sì. Sentite questa portata così a, a colpi. Roger, arriva a portare. Da Catania. Ciao. Ciao Alfio, alla prossima. Ignorante Ciucchino, ancora a finire ma non la bottante, ignorante Ciucchino. Ignorante, che non me l'ho fatto. Sì, Salvatore, 9:15 sei arrivato. Sì, ho cambiato anche lì, ma... Caspita, c'è una portante allucinante. Ho messo un B750, poco fa avevo un Magnum F49 finale, ora ci ho messo un B750 e mi dà 400 watt, quello me ne dava di più. C'è un apparato GSK, questo è l'apparato GSK, è tutto modificato, ho ribassato l'ego di nuovo e la cosa è bella lo stesso. Per tanto che c'è sto animale che ha chiamato l'animale con trimmiolo, si è curicciuccio, ancora a mandare la portante. Sì, come hai detto tu, è uno giuccio. Confermo. Io capisco la Sicilia perché mio padre è di origine siciliana, della parte di Agrigento però, Là, io sono dell'altra parte, l'Agrigento, sì, lo so dove. Io sono in provincia di Catania, io sono dalla parte di qua di Taormina, ma già l'Agrigento della parte di Catania, perché sono nel mezzo tra Catania e Taormina. Sono a 900 metri d'altezza del mare, 60 km da Catania e 60 km da Taormina. Sì, no, conosco bene la Sicilia. Ho degli amici lì a Naxos che hanno una gelateria. Mascheri? Naxos, giardini di Naxos. Giardino, ho capito, giardini Naxos. Andate, io ascolto qua, perché c'è sul ignorante di mandare la portante secondo loro. Secondo lui? Di qui il cappottino, ma se sono lui perché non ci riesci. Dai, ti mando avanti Antonio, avanti Antonio. Cappa, dai. Cappa, salutoni l'amico dalla Sicilia. E qua sto arrivando fortissimo, fortissimo. Sì, Antonio, Salvatore, sono dai. Ho cambiato a saliva, se non messo un attimo. Che mi spinge l'apparato qua, mi spinge sul presidente GSK qua, su GSK spinge, mi spinge di più di un 48 cambio. Cappa, 920 Radio 5 sei qua in Sardegna, se voglio pure io già ti arrivo così, non so come ti arrivo però non ho tantissima potenza adesso. Mi fai 9 e più oscillante, da 9 a 9 e più oscillante Radio Super 5, arrivate tutti una bomba qua, complimenti veramente. Io ho un'antenna qua, una Sirio Ibiza 2007, hanno 8 mesi di attesa del terreno e basta, e le DSK è un D750. Io sto utilizzando una Ringolem. Vai bene Andrò. Schiacciate il modulaggio, se non era su giù, su dopo, su circo cura. Avanti Danilo. Danilo, ci sei? L'ha appena a mangiare Danilo. È andato a mangiare, che ora è? Sulle 7 sono. Danilo, sei andato a mangiare o fare merendina? Sento altre modulazioni, io purtroppo la mia antenna non è sul tetto, però riesco comunque a copiarvi. Ma vai bene anche te, vai bene dai, schiaccia e modula, è la cosa bella dai. Ma già siamo rimasti quattro gatti con questi apparecchi e in più qualcuno rompe anche le scatole, no? Purtroppo, è così. Così lo so, è iniziato di nuovo, vabbè, qualcuno ignorante. Non solo che siamo nel 2021 ancora ignorante se ne è in giro. Sì. Ma senti, questo non l'ecco, Anto. Capo che non sento, io sento tutti, non ne ho problemi. Hai l'antenna ai 420, hai. Mamma mia, va bene. Secondo me è più sorda, cioè si sente in propagazione migliore di qualche altro tipo di antenna, secondo me. Non so, io questa mi sarebbe piaciuto provarla sul tetto, a vedere come rende. In trasmissione va bene, è che perdo molto in ricezione io. Io la ricezione ce l'ho buona. Vuol dire che ce l'hai forte in ricezione, in trasmissione ce l'hai un pochettino più bassino, Capo, però io non ho problemi. Dai, schiaccia in modo che le cose belle, che qualcuno magari in FM, siamo in AM, non siamo in FM. Capo, avanti, chi chiama? Leggermente più bassi di segnale di voi. Ma Gigi Vulcano che si è fatto? No, c'è, ogni tanto entra anche lui, Se l'ascolto me lo saluto, ti saluto alla stessa 50, perché prima lo sentivo più spesso, ora quant'altro che non lavoro, che è in pensione, lo sento più meno. Sì, gli dico, saluti da Salvatore? L'Espresso 50. Espresso 50, giusto? Confermo. Adesso prendo appunto, dai. Sì, perché prima di andare lo sentivo la 45. Ora che è andato in pensione, è diventato nonnino. No, ma che vuole entrare, avanti. No, fa caldo. Ciao, allora, sto provando qua l'alimentatore, dopo averlo messo a posto. Vediamo un po' come va. Ma chi è che chiama? Ho sentito una ragazza. Avanti chi chiama? Dimmi Antonio Ricivini, Emi. Da quando è che non sentiamo una ragazza in frequenza? Attenzione, bombolino, bomboletto! Avanti! Sì, vai! Sembra di sì. Capo, io sono attaccato il cobra e sto mettendo sotto questo apparecchio. È una cosa stranissima. Ribassa un pochettino la modulazione. Abbassa un po', Gianni. Capo, guarda così, va bene. Gianni, ribassa un pochettino la radio, che c'hai troppa radio aperta. Non so se c'hai troppa radio aperta, Gianni, ribassa un pochettino. Ehi, guarda, va bene così, perché sto usando un microfono che era un po' di tempo che non usavo, lo devo regolare, mi sono dimenticato. Arrivi bello forte di radio, ti faccio complimenti che arrivi più forte di radio, con questo mic arrivi bello forte, bella amplificata, la modulazione amplificata e forte di radio, cambio. Capa, questo qui è l'Echo Master Plus con il Cobra, il GT200. No, io sto usando un Midland. e ce l'ho copiato qua su GSK, cambio. KK, io ho qualcosa di più, dai. Capo, ora spengo la stralima, vediamo se mi ascolti, eh. Santiago Lopez, sì, Radio 5. Capa. Ascolti, se ti spammi un pochettino la stralima, più qualche all'apparato, cambio. Capa, come lo senti tu già? Io lo sento bene, dai, lo sento abbastanza bene, Anto. E voi come mi ascoltate a me? Anche ascolto Gianni, schiaccia in modo che la cosa è bella, 9 più Radio Super 5, eh. Troppo casino c'è però, dai. Buongiorno a te, buongiorno a me. Avanti! Vai, entra! Sì, cordializzo l'amico in Sardegna, se non ho capito male mi pare Gianni, io comunque sono Antonio, QDH è Bronte a circa 7 km qui dal QDH dell'amico Salvo Espresso 50, io sono Antonio, come nickname in AM la stazione mia si chiama Predator, di nuovo per te amico in Sardegna, non ho capito, Gianni mi pare. Oh, negativo, Antonio da Sassari, Antonio Bombolo da Sassari, avanti! Sei quindi un mio omonimo, va bene Antonio, mi arrivi anche tu 9+15 qui nella mia stazione, segnale molto forte. Rilancio per l'amico Domenico, sempre in maletto, vai Domenico. C'è un altro amico Franco, avanti Franco! Vediamo un po' se Antonio mi ascolti, qui Franco da Sassari. No, stanno parlando tra di loro. Ok, sì, non avevo capito per quale Antonio rilanciava, sì. Copiato anche l'amico Franco in Sassari, il tuo segnale qui è nella mia stazione, il segnale di 8-9, dammi Roger se mi hai copiato Franco. Sì, sì, ottima stazione anche la tua, il segnale qui va da 6-9, a volte passi anche il 9+20, con un po' di QSB, la radio è super 5, avanti ancora per te. Sì, ok Franco, grazie per il QRK, anche io ti ascolto radio super 5. È mancato di segnale. Sì, un attimino, si è staccato un... La frecciatura è sempre intervenuta per Franco, cambio. Ciao Domenico, buonasera anche a te, complimenti anche per la tua stazione. Freccia azzurra, io a volte mi faccio chiamare Freccia rossa perché lavoro sulle linee ferroviarie qua. Bene comunque, dai, ancora per te il mic, Domenico. Antonio in Sassari, in questo meraviglioso collegamento con l'isola Sarda, la propagazione mi sembra abbastanza buona. Sembra un questionario. KK, sì, sembra proprio un consigliere locale, oggi arrivate tutti fortissimi. Tu c'hai un segnalone, c'hai qua in Sardegna, un segnalone. Papa, sì, ma anche voi vi ascolto bene, sia te sia l'altro tuo coinquilino, compaesano, se così si può dire, anche ascolto molto bene, che mi sembra che di avere capito che lavora in Freccia Rossa, quindi diciamo c'è una diatriba sul nickname della CB Franco per te. Sì, sì, perché siccome qui a Sassari ci sono tanti con il mio nome, quindi cerchiamo di distinguerci, c'è chi mi chiama a volte Franco Binario, chi Freccia Rossa, insomma, lascio a loro comunque la scelta, avanti ancora per te. Perfetto, va bene, allora Salvo, tu invece niente, oggi diciamo te ne stai andando in astinenza col solo di baracchino, anche mi pare Domenico gli arriva bene, pure lui in Sardegna, quindi tutto regolare, mi fa piacere. Sono di apparato Salvo, quindi oggi, come mai? Ti siete dato al risparmio? No, poco fa l'avevo acceso, l'avevo tutti prima, l'avevo mangiato. prima avevo quello grande, forse a capo chilo e a capo chilo nico, non c'è bisogno che sta con l'acqua lì, mandò. Avanti, c'è Antonio e Sassari, cambio. Attenzione, Brecco qua dalla piccolo QTH. Avanti. Antonio, ciao, come mi ascolti? K, sì, questo Smith, sì, Santiago 7, Radio 5, K. Sì, neanche qua devi, non è il tuo segnale, sei molto basso, un 3-4. Un attimo, la controllo la stessa, rientro subito, 3-4, ok. Sì, sì, sei molto basso, rispetto al tuo segnale sei molto basso. Avanti ancora gli amici da Sicilia, chi prende, mo, Domenico? Franco, si ascolti ancora? Sì, sì, chi chiama Franco? Sì, sei aumentato adesso, eh? Molto di più? Un 2 punti in più. Quindi vado a 6? K. Sì, grazie, Fra, dai. Sto provando l'antenna, dai, riprendete, grazie. Prego. K, io vi ascolto bene in Sardegna, Sono rientrato, Sì, ti abbiamo chiamato da lì poc'anzi. Anche io ci sono, Avanti già, mi mando Gianni, avanti. Ehi K, voglio salutare tutti gli amici della Sicilia che sta ascoltando. Gianni Doppio Room, la città è Sassari, super cordializzo. Avanti a chi tocca. Sì, a me. Sì, sono uscito un attimino e adesso sono rientrato là. Comunque lo sento forte e chiaro l'amico della Catania. Eccomi, ci sono anch'io, buonasera. Adesso ha migliorato il segnale, Fra. Adesso sei tu, dai. Bene. Dai, chiama gli amici della Sicilia, dai. Capo, avanti Palermo, avanti! Beh, c'è tutta la Sicilia che chiama, Marsala, Palermo, boh. C'è un sacco di bailame, Non mi assomiglia per niente. Bene, dai. Ciao Gianni, anche a te. No, stavo provando l'antenna da Gran Prix, quindi ecco perché volevo consegnare un'altra frazioncina, diciamo. C'è un abito, c'è. Vabbè sì, piazzata? Ciao dai, sì, piazzata, vabbè, piazzata così, un po' posticcia, un po' storta, un po' bassa, più bassa dell'altro, dai. Non ho avuto tempo di procurare il tubo che necessita per poterlo mettere in alto. Differenza tra una e l'altra c'è? Mi stavano dicendo due segnali, due dB, quindi è un pochino più bassa, sì. E quelli che ricevi tu, i segnali sono diversi o hanno cambiato? No, sono uguali. Oh, strano, non lo so. Sì, vabbè, farò le prove quando troverò il palo adatto per poterle mettere, diciamo, tutti e due in verticale alla stessa altezza, capito? Così è una prova giusta per provare se andava. Le punte cambiano, fanno la differenza, amico. Sì. Le due punte fanno la differenza, quello è. Tu pensa che non ho neanche controllato il stazionario, quindi ti puoi immaginare. Va bene. Ah, a proposito, un'altra ho chiesto, abbiamo dato la fotografia, scusate per il ping pong, ho chiamato quell'amico là e mi ha detto che dovrebbe essere una bibanda. però così, vederla così in fotografia dovrebbe vederla dal vivo, ma diciamo che all'80% è così. Ah, ah, voilà. Se mi fai sapere e poi già ci aggiorniamo. Sì, già ti chiamo magari domani sera se coincide, se non ho problemi di lavoro di rientro. Andare sì. Poi chi c'era che stava richiamando che non stavo facendo il cuocero fra di noi? Beh, vediamo se c'è ancora la Sicilia, vediamo un po' avanti la Sicilia. Marsala, se ascolti l'isola sarda, cambio. Hola Chico. Non li abbiamo neanche salutati, li abbiamo persi. Ecco, arrivano un po' basso e arrivano. E vabbè, già si riapre la propagazione, oggi è giornata. E come ha fatto il temporale, ci ha portato poi propagazione a presto. Oh, cazzo, da qui c'è costante, segnali ottimi a livelli di da 1 sì, fino a 9,20, ma quasi sempre costante. Io sto sempre provando questo alimentatore per vedere se funge bene, ma a quanto pare sta andando bene. Però aspetta, segnali puri di 9,20, però c'hanno i bambini attaccati dietro, quello devi capire, devi aggiungere anche. Sì, sì, l'hanno messo che c'erano le vitamine sotto, Quello ha tolto e sceglie i nostri segnali che gli arriviamo noi. Io per dire sono liscio, vitamine non ne ho. Neanche io ne ho vitamine. Ti ascoltiamo sempre. Gappa gappa, e a me mi ascoltate giù in Sicilia. Gianni, ci hanno passato l'antenna. Cappa, dai, scusate, ma stavo parlando con Zicare. Avanti la Vicone, dai, avanti. Doppio rum in ascolto. Qua non ti ascolto tanto bene, c'è il rumore di propagazione, QRM della propagazione forte, non riesco a ascoltarti bene adesso. Ti sento un basso di radio, rilascio tutto a Franco, vediamo un po' come ti ascolta lui. No, anch'io ho difficoltà adesso a ascoltarli, sta un po' calando la propagazione, Gianni. No, io l'ho sentito, la verità l'ho sentito, ti ha salutato. Anche qua vai e viene, anche qua. Avanti Sicilia! Purtroppo vi sto perdendo, purtroppo vi sto perdendo, prima che non vi ascolto più vi saluto tutti uno per uno lì in Catania, un abbraccio da parte mia, avanti ancora Domenico. Ciao Franco, un forte abbraccio a te e famiglia, buone fine della domenica e buon inizio settimana per domani. Salvatore, nonché l'espresso di Manda, città di Maletto, provincia di Catania, ti ha salutato Franco. Vai Antonio in Sassari, cambio. Gappa gappa, vi saluto anche io, l'amico di Catania e a tutti. Gappa, non so se arrivo perché ha passato un po' di potenza, ci arrivo sempre lì, avanti. Sì Antonio, qua ancora arrivi nella provincia di Catania, nonché città di Maletto, ok? Per me arrivi, vai Domenico, cambio. Non mai facili più di salutare. Va bene, saluto io gli amici della Sardegna nella speranza che ancora mi ascoltino. Buona fine della domenica, io mi vado a vedere il Gran Premio, è stato un piacere collegarvi. Saluto. Gianni, saluto Franco e saluto Antonio dalla Sardegna, il mic per Franco. Scappa, mi hai ricordato il Gran Premio, anche se sono ormai so già il risultato, comunque pazienza, dai, lo guardiamo nuovamente. Un abbraccio ancora da parte mia a tutti voi e alle prossimine, magari in queste condizioni, perché di più non si può pretendere, caspettina. Avanti ancora Antonio. Lo so anche io il risultato, e cosa Verstappen ha preso, ha scoppiato il pneumatico e mi è riuscito fuori pista, mi pare. Saluto Salvo il maletto, ciao Domenico, ci vediamo la prossima, saluto la Sardegna, vai Domenico, non riprendo più. Ciao a tutti, la Sardegna vi abbraccia, ciao la Sicilia, la Sardegna vi dà un forte abbraccio. Ciao Domenico, ciao Franco, ciao Salvatore, alle prossime. Salvatore, saluto. Ciao Danilo, ciao a tutti. Io saluto tutti gli amici dell'Isola Santa, salutatemi a Gigi Vulcano. Salutatemi, mi ha fatto piacere sentirvi. Un forte abbraccio per tutti gli amici dell'Isola Santa. Salvatore, saluta. Vai Domenico. Capa, vi saluto pure io, alla prossima propaganda, mi ha fatto molto molto piacere questa grande modulata con voi, che non capita tutti i giorni, ok, avanti già. Ehi, dai, io non so se vi hanno ascoltato, vi do un forte abbraccio a tutti gli amici della Sicilia, la Sardegna vi abbraccia, doppio rum, vi mando una grande strettona di paletta, vai, ciao a tutti e grazie per queste ore. C'è un bel di casino di rumore di propagazione, anche lui adesso si stavano, a momenti si alzavano e poi si abbassavano. Oh Gianni. Ehi, altri dimmi. C'è stato un momento che stavano parlando e hanno sovramodulato Antonio addirittura. Sì, sì, è vero. Però la propagazione, il rumore della propagazione adesso li stava coprendo, però erano momenti e uscivano un bel fuoco. Sì, sì, sì. Adesso non mi ricordo quando, se ieri notte o l'altra notte ancora. Cavolo, sono arrivati a 9.60, ma a 9.60 pieno, porca miseria. L'amico della Sicilia sta pagando 600 watt, non ti riguardo. Ecco, l'ha messo a bassa potenza, sono 600 watt. La massima potenza vuole essere 1000-1200. No, 900 ha detto, la massima potenza 900 watt. Ah, 900 addirittura. Magari di voci, noi siamo con le battelle a Parigi. Vedi, quello era bello provare il valvolare una volta a caldo, però in queste distanze qua ci vuole troppo a farlo scaldare, che quello pompa adesso, sai perché mi hanno fatto? Perché ha abbassato in potenza, perché poco fa non ce la facevo a sovramodularmi. No, Salvatore ti ha sovramodulato di appena appena, mi Antu, la radio ce l'ha proprio coperta, quello che stava spingendo con 900 watt di roba ha cambiato la radio. Ma lo so, no, quando ho attaccato quello là era chi dava ragione. Cioè, la picchi di 9.30, ho toccato anche il DB in Sicilia, ti puoi immaginare. Monello è. Tu conta che io sto usando la radio normale originale, qui, non sto usando nessun bambino dietro. Si attacca un bicino, cazzo, si scioglie anche l'uno da Sabassi. Attenzione mia dalla Sicilia. Avanti! Senza problemi, solo che questa qua si mette in mezzo a farci sentire la musica, non si capisce più niente di quello che dicono gli altri. Vabbè, quello della Catania stava dicendo che Antonio gli arrivava a 9.30, poi l'altro non so chi è che stava dicendo che si è messo questa qua e non si capisce più niente. Sardegna dalla... We'll be right back. sentiamo. C'è Tesla che mangia la musica qui. È un guasto, è uno che non ha gli attributi sotto, quello che manda la musica, capito? Però purtroppo anche qua abbiamo questa gente guasta, non ci possiamo fare niente. Cambia qualcosa e anche molto, però la prova la possiamo sempre fare. diciamo leggermente, leggermente, ma perché ce n'è che tanto che porta a noi, che avete voluto stare che la oh, comunque, dai, chi è che c'è ancora in radio? Io ci sono ancora. Io vi sto ascoltando, dai. Anche io vi ascolto, dai, che c'è troppo QRM la propagazione, no? Lo sto facendo più che altro per tenere sotto controllo questo alimentatore per se va bene, ma vedo che sta andando bene, quindi una resistenza cambiata e va di lusso, va. Intanto l'alimentatore lo stessi quando stai spingendo con la portante e parlando. Quando schiacci la portante difficile e parli, l'alimentatore inizia a scaldare e a spingere forte. Tanto sono i watt che lo assorbono. Prova così e guarda se scalda e tutto quanto il resto. No, adesso sta andando bene, 13,8 sempre, tranquillo. Prima andava alternata, eccetera, eccetera. È stato risolto il problema. Sono capintato per la Giovanni. Io il Poche Paolo adesso sono a 10 ampere di spinta. Adesso vediamo in volt cosa mi dice. 13,8 fisso, senza problemi. Fisso, manco si muove. Però in ampere sono 10 ampere fissi. Quegli antenni da 10 non ci arrivo ma quasi. Avanti, chi chiama la Sardegna? Si sentono ancora di Catania? Ma è confuso la radio, è in mezzo al QRM della propagazione, se io non mi comprendo nulla. Perché stiamo parlando un po' in dialetto. Ma voi la banda laterale già ce l'avete, sì? Certo. E tu ce l'hai la banda laterale, sì? Io in tutta la radio ce l'ho. Non c'ho radio dove non c'ho banda laterale. Dai, proviamo a fargli un QSO con loro in banda laterale, così riusciamo a spingerci un pochino oltre, no? Non so se ce l'hanno loro, perché stanno usando tutti gli apparecchi, quelli tipo Colt, qui. Non so se hanno le bande laterali, quelli lì. O hanno solo AM e V. Le tolgono anche le ferme a quegli apparecchi lì perché per metterli, per dire, la scheda Colt dove si mette le ferme, dove c'è l'interruttore delle ferme, lì mettono la scheda di Colt da PIC per inserirla e solitamente non tolgono le ferme. Ora, ci sono? Lascio scaldare un po', vai. Pompando stai. Si sente? Ma si sente o si vede? Perché sentirsi è brutto. Diciamo che si sente e si vede, dai, tutti e due. È freddo, un attimino, da di tempo. Leggermente compressa, ma compressibilissima al 100%. Dalle tempo adesso sono circa 400, Prova a fare chiamata, prova, così scalda più in fretta. Vabbè, dai, io vi lascio, dai, vi saluto che devo andare a portare il cane, dai, ci sentiamo. Buona serata a tutti e continuo così, futuro collettivo esecutivo. Ogni radio che c'hai, non ammasci, no. Ciao Gianni, ciao. Guarda, tutti le... Ok Gianni, alla prossima, ciao. Ma avanti, chi chiama Sassari qui? Cazzo, sempre noi siamo in provincia di Catania, nonché Salvatore, Ancora vi ascolto una meraviglia qua, sia a te sia a mancare Antonio qua, Franco, cambio. Sì, 9 più anche qua, Radio 5. Ti mando avanti un amico adesso, avanti Tino. Eia, ciao Salvatore, ci ascolti questa piccola stazioncina, cambio. Ciao Pino, giugno 2021, è un forte abbraccio a te famiglia e ben sentito veramente, mi fa piacere sentirti. Qua c'è l'amico mio Nino e Domenico Freccia Azzurra. Vai Antonio per salutare l'amico Pino in Isola Sarda. Sì, ciao, buonasera, dai, piccolino ma sono riuscito a toglierti pure, dai.